Uno dei pochi piaceri della vita è costituito dagli infortuni giornalistici. Rivelano la disattenzione del potere, la svista, no? Un sintomo di debolezza di una macchina altrimenti micidiale. Il 6 luglio 1980, ben 14 anni fa, il Corriere della Sera, nella cronaca milanese, a pagina 11, ha pubblicato la notizia di una rapina al cinema Majestic. Niente di strano sotto il sole, anche se di sicuro la rapina è avvenuta di sera, per l'esattezza intorno alle 22. Se non che, a pagina 13, lo stesso Corriere pubblica un'altra notizia con un titolo preoccupante. Rapinatori in un cinema con luce rossa. Luce rossa all'epoca ancora tra virgolette, per un battesimo linguistico ancora abbastanza fresco. Io leggo e confronto. È vero che questa rapina è avvenuta alle 20:30, sì. È vero che la cassiera vittima della prima rapina, quella di pagina 11, si chiamava Evelina, mentre questa si chiama Elvina. È vero anche che la prima cassiera aveva 45 anni e che questa seconda ne aveva 52. È vero anche che gli autori della prima rapina, a quanto sembra, agivano sotto l'effetto di stupefacenti, mentre nella seconda di questa loro caratteristica non si fa cenno. Ma è anche vero che si tratta pur sempre, ahimè, del cinema Majestic e che la meccanica dell'evento sembrerebbe grosso modo identica. Fatti i debiti confronti, dunque, le due notizie ai loro si rivelano più modestamente una sola. Erano anni, quelli del 1980, erano anni in cui il Corriere e chi lo governava mangiavano sul fatto che tutto andasse male, che Milano fosse un Bronx invivibile, dove i tossicodipendenti e i malavitosi la facevano da padrone alla faccia dei ben pensanti e della buona borghesia lavoratrice. Meglio abbondare che deficere. Due rapine di cui dar notizia sono sempre meglio di una. L'Espresso di questa settimana. L'Espresso di questa settimana, pagina 68-69, pubblica un articolino intitolato La banda del Baco. Parentesi, l'Espresso è uno di quei giornali perfettamente convinto che se al lettore gli si propone titoli ammiccanti e zeppi di giochi di parole allusivi, questo lettore si affeziona per la vita. Il che vale a dire che l'Espresso, come tutti gli altri giornali, parte dal principio che il lettore sia un perfetto idiota, carne da rotativa, incapace di intendere e di volere. Vabbè. Beh, in questo articolo sulla banda del Baco, ovviamente, non c'è alcunché che giustifichi il titolo, ma in compenso vi si narra di un progetto dell'onorevole De Michelis, al tempo in cui era incredibilmente ministro degli esteri, un progetto finanziato da 20 nostri miliardi per avviare l'arte della sericoltura in Colombia. Tutti noi ci immaginiamo come i problemi dei colombiani fossero finalmente risolti in grazia di questa lodevole iniziativa. Bene, se non fosse che a pagina 119 dello stesso numero dell'Espresso c'è un altro articolo intitolato esattamente La banda del Baco, e uno legge e scopre che ovviamente non c'è nell'articolo alcunché che possa giustificarne il titolo, ma in compenso viene a sapere di una mostra a Roma, La seta e la sua via, in cui si parla di tutti i luoghi del pianeta in cui si produce la seta, dimenticandosi malauguratamente, ahimè, della Colombia. Poco male, ma lo stesso titolo, peraltro ingiustificato due volte per due articoli diversi, è una forma curiosa di contraddizione. Non ci resta che sperare che il titolo La banda del Baco venga utilizzato anche sul prossimo numero, magari per dar notizia di un furto di camicie di seta ai danni dell'onorevole De Michelis. Così, facendo i conti, abbiamo avuto la stessa notizia spacciata due volte con titolo diverso. e lo stesso titolo su due notizie del tutto diverse. Non ci resta che attendere fiduciosi la perfezione, la stessa notizia stampata due volte con lo stesso titolo.